per fortuna è una notte di luna. E qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono, chi sono e che faccio come vivo. Cuore, chi sono? Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia lieta, sono da gran signore. Rimedinni d'amore per sogni e per chimere e per castelli aria. L'anima mia d'aria parlate voi.